piano, porta via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire suona resistenza sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Yeah. da partigiano. Bella ciao, bella.